una sicurezza nel gusto, non nel campo della bellezza, ma in quello dei modi, che in presenza di una nuova circostanza faceva sì che l'uomo elegante, come il musicista a cui si chiede di eseguire un brano a prima vista, cogliesse subito il sentimento, il movimento che essa richiede e vi adattasse il meccanismo, la tecnica che meglio le si addicono, consentendo al gusto stesso di esercitarsi senza l'impaccio di nessuna delle considerazioni da cui tanti giovani borghesi sarebbero stati paralizzati, per paura sia di rendersi ridicoli agli occhi degli altri, venendo meno alle convenienze, sia di apparire troppo premurosi agli occhi del loro amico, e che in Robert erano sostituite da un disprezzo certo mai provato nel proprio cuore, ma ereditato nel proprio corpo, e tale da piegare le maniere dei suoi antenati a una familiarità della quale non potevano immaginare che il destinatario potesse essere altro che lusingato ed estasiato. Infine, una nobile liberalità che, non tenendo in alcun conto tanti vantaggi materiali, il denaro speso a profusione aveva contribuito a fare di lui, in quel ristorante come altrove, il cliente più alla moda e il grande favorito, situazione sottolineata dalle premure di cui lo colmava non solo il personale, ma tutta la gioventù più brillante. Lo induceva a metterseli sotto i piedi, come quei divanetti color porpora effettivamente e simbolicamente calpestati, sontuoso percorso di cui il mio amico si compiaceva soltanto perché gli consentiva di venire verso di me con più rapida grazia. Tali erano le qualità, tutte essenziali all'aristocrazia, che trasparivano dietro quel corpo non già opaco e oscuro come sarebbe stato il mio, ma significativo e limpido, come attraverso un'opera d'arte la potenza industriosa ed efficiente che l'ha creata, e rendevano i movimenti dell'agile corsa disegnata da Robert lungo la parete non meno intelligibili e affascinanti di quelli dei cavalieri scolpiti in un fregio. Ahimè, avrebbe pensato Robert, valeva proprio la pena di passare la mia giovinezza a disprezzare la nascita, a onorare soltanto la giustizia e l'intelligenza, a scegliere al di fuori degli amici che mi venivano imposti dei compagni goffi e malvestiti, purché dotati d'eloquenza, se poi il solo essere che si mostra in me, di cui si serba un ricordo prezioso, non è quello che la mia volontà, con fatica e con merito, ha modellato a mia somiglianza, ma un altro che non è opera mia, che non è neanche me stesso, che ho sempre disprezzato e cercato di vincere. Valeva la pena che io volessi tanto bene, come è accaduto, al mio migliore amico, se il più grande piacere che gli ricavava dalla mia persona è quello di scoprirvi qualcosa di assai più generale di me stesso, un piacere che non è affatto, come dice, ma può sinceramente credere, un piacere d'amicizia, bensì un piacere intellettuale disinteressato, una sorta di piacere artistico. Ecco quanto, oggi, io temo che Saint-Lieu abbia a volte pensato. In questo caso era in errore. Se non avesse amato, come di fatto amò, qualcosa di più elevato dell'innata scioltezza del suo corpo, se non fosse stato così a lungo distaccato dall'orgoglio nobiliare, ci sarebbero state più applicazione e pesantezza nella sua agilità, una consistente volgarità nel suo tratto. Come a Madame de Villeparisis era occorsa molta serietà per infondere nella sua conversazione e nelle sue memorie il senso della frivolezza, che è cosa dell'intelletto, così, perché il corpo di Saint-Lieu fosse abitato da tanta aristocrazia, occorreva che questa disertasse il suo pensiero, teso a più alti oggetti, e si riassorbisse nel suo corpo, fissandovisi in linee nobili e incoscienti. Per questo, dalla sua signorilità fisica, Non era assente la signorilità intellettuale. Mancando la seconda, la prima non sarebbe stata completa. Un artista non ha bisogno di esprimere direttamente il proprio pensiero nella sua opera perché questa ne rifletta la qualità. Si è potuto anzi affermare che la più alta lode di Dio sia nella negazione dell'ateo, che trova la creazione tanto perfetta da poter fare a meno di un creatore. Inoltre, sapevo bene che non era soltanto un'opera d'arte quella che ammiravo nel giovane cavaliere in atto di tracciare lungo la parete il fregio della sua corsa. Il giovane principe, discendente di Catherine de Foix, regina di Navarra e nipote di Carlo VII, che egli aveva lasciato per venire da me, i privilegi di nascita e di patrimonio che deponeva ai miei piedi, gli antenati sdegnosi e flessuosi che sopravvivevano nella padronanza, l'agilità e la cortesia con cui aveva disposto attorno al mio corpo freddoloso il mantello di vigogna, tutte queste cose non erano, forse, come suoi amici di più lunga data che, a mio modo di vedere, avrebbero dovuto eternamente separarci e che lui, invece, mi sacrificava compiendo una scelta possibile solo ai più alti livelli dell'intelligenza e grazie a quella libertà sovrana di cui i movimenti di Robert erano l'immagine nella quale si realizza la perfetta amicizia? Quanto la familiarità di un Guermant, in luogo della distinzione che essa sviluppava in Robert, perché la sua sdegnosità ereditaria non era che l'involucro, divenuta grazia incosciente di un'effettiva umiltà morale, quanto potesse rivelare in termini di boriosa volgarità, l'avrei scoperto non nel signor di Charlieu, nel quale certi difetti del carattere, che per il momento faticavo a capire, si erano sovrapposti alle abitudini aristocratiche, ma nel duca di Guermant. Eppure anche lui, in quel suo insieme ordinario, che tanto era dispiaciuto alla nonna quando l'aveva incontrato da Madame de Villeparisis, presentava alcuni tratti d'antica grandezza che mi apparvero evidenti il giorno successivo alla serata trascorsa con Saint-Lieu, andando a pranzo a casa sua. Non mi ero reso conto della loro esistenza, né in lui né nella duchessa, quando in principio li avevo visti dalla zia Villeparisis, non più di quanto, la prima volta, mi fossi reso conto delle differenze per cui la Berma si distingueva dalle sue colleghe, sebbene le peculiarità, che tendono ad accentuarsi man mano che gli oggetti diventano più reali, più accessibili all'intelligenza, fossero in lei infinitamente più impressionanti che in loro. Ma, alla fine, per quanto lievi siano le sfumature sociali, al punto che un pittore veridico come Sainte-Beuve, quando vuole mettere successivamente in risalto certe sfumature fra i salotti di Madame Geoffrin, di Madame Récamier e di Madame de Boigne, li fa apparire così simili che la principale verità emergente, all'insaputa dell'autore, dai suoi studi, è il nulla della vita di salotto. Tuttavia, in virtù dello stesso meccanismo verificato con la Berma, quando i Guermant mi diventarono indifferenti e la mia immaginazione smise di vaporizzare la gocciolina della loro originalità, mi fu possibile, per imponderabile che fosse, raccoglierla. Siccome la duchessa, quella sera da sua zia, non mi aveva parlato del marito, mi chiedevo se, con le voci di divorzio che correvano, sarebbe stato presente anch'egli al pranzo. Ma fui subito illuminato. Fra i lacchè che stavano schierati in anticamera, e che, avendomi considerato sino a quel momento più o meno alla pari dei figli dell'ebanista, vale a dire con più simpatia, forse, di quanta ne avessero per il loro padrone, ma come del tutto inabile ad esserne ricevuto, dovevano interrogarsi sulla causa di una simile rivoluzione. Vidi infatti insinuarsi il signor di Guermantes che aveva spiato il mio arrivo per ricevermi sulla soglia e sfilarmi di persona il soprabito. «Madame de Guermantes sarà la persona più felice della terra», mi annunciò in tono abilmente persuasivo. «Permettetemi di sbarazzarmi del vostro pastrano». Trovava al tempo stesso bonario umoristico usare il linguaggio del popolo. «Mia moglie aveva un po' paura di una vostra defezione, anche se il giorno l'avevate deciso voi stesso. E da stamane che ci diciamo a vicenda, vedrete che non verrà. Devo dire che Madame de Guermantes ha visto più giusto di me. Non siete una persona facile da avere e io ero convinto che ci avreste mandato in bianco». Se il duca era il marito cattivo, anzi addirittura brutale che si diceva, non si poteva non essergli grati, come si è grati ai malvagi delle loro dolcezze, per quelle parole. Madame de Guermantes, con cui sembrava stendere sulla duchessa la sua ala protettrice, facendone un tutt'uno con se stesso. Intanto, prendendomi familiarmente per mano, si fece un dovere di guidarmi e introdurmi nei salotti. Una certa espressione corrente può piacere in bocca a un contadino se rivela la sopravvivenza di una tradizione locale, la traccia di un evento storico ignorati, magari dallo stesso individuo che vi allude. Analogamente, la cortesia del signor di Guermantes, che egli mi avrebbe testimoniata per tutta la sera, mi incantò come un residuo di abitudini plurisecolari, abitudini in particolare del XVII secolo. Gli uomini del passato ci sembrano infinitamente lontani da noi. Non osiamo accreditarli di intenzioni profonde al di là di ciò che esprimono formalmente. Ci meravigliamo scoprendo un sentimento più o meno simile ai nostri in un eroe d'Omero o un'abile mossa nella tattica di Annibale durante la battaglia di Cannae, quando lasciò che l'avversario penetrasse nel fianco del suo schieramento per circondarlo di sorpresa. Si direbbe che, nella nostra immaginazione, il poeta epico e l'antico generale siano remoti da noi come un animale visto in uno zoo. Persino con certi personaggi della corte di Luigi XIV, quando troviamo segni di cortesia in lettere indirizzate da uno di loro a una persona di rango inferiore e che non può essergli di nessuna utilità, ne restiamo sorpresi, perché ci rivelano di colpo, in quei gran signori, tutto un mondo di convinzioni che essi non esprimono mai direttamente, ma da cui sono dominati, e in particolare la convinzione che bisogna, per cortesia, fingere determinati sentimenti ed esercitare nel più scrupoloso dei modi determinate funzioni di gentilezza. Questa distanza immaginaria dal passato è forse una delle ragioni che consentono di capire come alcuni grandi scrittori abbiano potuto scorgere una bellezza geniale nelle opere di mediocri mistificatori come Ossian. Stupiti che dei remoti bardi abbiano idee moderne, restiamo a bocca aperta se, in quello che reputiamo un antico canto gaelico, ne incontriamo qualcuna che ci sarebbe parsa appena ingegnosa in un contemporaneo. Basta che un traduttore di talento aggiunga un testo antico, restituito più o meno fedelmente, qualche brano che, firmato con un nome contemporaneo e pubblicato a sé, parrebbe al massimo gradevole, e subito conferisce una commovente grandezza al suo poeta che si trova a suonare sulla tastiera di svariati secoli. Quel traduttore non era capace che di un libro mediocre se l'avesse pubblicato come un suo originale. Fatto passare come traduzione, sembra quella di un capolavoro. Il passato non si limita a non essere così fugace, permane. Non è solo pochi mesi dopo l'inizio di una guerra che delle leggi ben votate possono influire efficacemente sul suo corso. Non è solo 15 anni dopo un delitto rimasto oscuro che un magistrato può ancora rinvenire gli elementi atti a far luce su di esso. Dopo secoli e secoli, lo specialista che studia in una regione lontana la toponomastica, i costumi degli abitanti, potrà ancora cogliervi questa o quella leggenda di gran lunga anteriore al cristianesimo, già incompresa, se non dimenticata, ai tempi di Erodoto, e che, nella denominazione data a una roccia in un rito religioso, resta in mezzo al presente come un'emanazione più densa, fissa e immemorabile. Ce n'era una, sebbene assai meno antica, della vita di corte, anche nel signor di Guermantes, se non nei suoi modi, spesso volgari, perlomeno nello spirito che gli dettava. Ne avrei goduto ancora, come di un vecchio profumo, un po' più tardi, ritrovandolo in salotto. Non fu subito, infatti, che ci andai.